per questo canto e canto a te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. E l'amore se ne va, la mia donna non mi vuole amare più. Lei sta vivendo con un altro come me, come una foglia che si è persa in mezzo al mar. Ho girato tutto il mondo come un vagabondo, ho visto altre donne, nessuna è come lei, ma è inutile sperare che un giorno tornerà. La donna quando è donna si dimentica il suo amor, si dimentica il suo amor. Girato tutto il mondo per dimenticare, ho visto altre donne, nessuna è come lei, ma è inutile sperare che un giorno tornerà. La donna quando è donna si dimentica il suo amor, si dimentica il suo amor, si dimentica. Se tu vuoi amarmi, dovrai svegliarti un po', che gli occhi che tenevi chiusi li devi aprire a poco, sai perché? È tempo di sapere amar, di sapere amar. Se tu vuoi amarmi, dovrai soffrire, ma un grammo di felicità è più di che le lacrime che piangerai. È tempo di sapere amar, di sapere amar. Il cuore ti dirà non credere a lui, ma il cuore cosa sa di te? Non sa nemmeno che da quando sei con me, da allora batte sempre più. lacrime, di che le lacrime che piangerai. È tempo di sapere amare. Se tu vuoi amare me, dovrai cambiare un po', che gli occhi che te ne hai chiusi li devi aprire a poco, sai perché? È tempo di sapere amare, di sapere amare, di sapere amare, di sapere amare. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para ti usted. Ci tengo tanto alla tua vita, ai tuoi pensieri, al tuo respiro. Come è grande il mio amore per te. Io mi nascondo dietro le stelle perché ho paura di farti male. Com'è grande il mio amore per te. Lo stesso cielo, le stesse stelle, lo stesso mare e l'infinito non sono niente perché il mio amore è ben più grande. Io cerco sempre la differenza con le altre donne, ma poi mi arrendo. Com'è grande il mio amore per te. La mia tristezza in un secondo si fa allegria quando la incontro. Com'è grande il mio amore per te. Tristezza in un secondo si fa allegria quando la incontro. Com'è grande il mio amore per te. Ma com'è grande il mio amore per te. Sono innamorato, ma non cambierò il mio modo di vita. Sto con te il giorno fino all'imbrunire, ma la notte no. Di notte voglio scrivere canzone che tu un giorno sentirai. Io sono un artista e come un artista la notte per me. Non credere amore che in queste parole non c'è sentimento.

chissà se questa sera io la canto per te. Ma se canto devo piangere il tuo amore che nel vento se ne va. È troppo tardi tornare indietro, non è più la stessa cosa. Felicità se te ne vai, rimani insieme a lei, ma lasciami di lei questa nostra canzone. Radio AQP con música fácil de escuchar. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. Il mio amore è come il tempo, quando piove non c'è più. Quando invece si fa bello torna sempre accanto a me. Io mi sveglio alla mattina con il cuore e la paura e mi affaccio alla finestra per vedere cosa fa. Come mai che piove sempre? Cosa fa la tramontana? Non capisce che il mio amore se ne va. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. Stare in casa ad aspettare con un fiore nella mano, quando sai che non lontano una donna cerca te. E morire dalla voglia di baciarla sulla bocca, quella bocca che nessuno ha saputo amare mai. Come mai che piove sempre? Cosa fa la tramontana? Non capisce che il mio amore se ne va. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. Datemi una rosa che nel sole fiorirà. Datemi un amore che nel fuoco brucerà. Datemi la sabbia di un deserto che non so. Ma la pioggia quella no. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. La tempesta è già finita e l'azzurro tornerà. Io sono l'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. L'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. Sono l'ultima foglia d'autunno a staccarsi da un ramo. Sono l'ultima stella che splende in un cielo lontano. Sono l'ultima goccia di pioggia a cadere su un fiore. Ma io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. Oh, l'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. sono l'ultima onda di un mare che bacia la sponda. Sono l'ultima eco di un grido che ancor ti risponda. Sono l'ultima luce del sole di un giorno che muore. Ma io sono, io sono, io sono, io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. L'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. Sono l'ultima pagina bianca di un lungo discorso. Sono l'ultima ora di un anno trascorso. Sono l'ultima cosa del mondo che vuole il tuo cuore. Ma io sono, io sono, io sono, io sono l'amore. Io sono l'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. L'ultima cosa per te, tutto e poi tutti e poi me. Una parola che dicevi valeva più di un giuramento. Avrei spaccato le montagne, l'avessi detto tu. Io sono un po' superstizioso, perché la vita vale poco. Ma dopo quello che m'hai fatto, più nessuno amerò. Non soffrirò più per te, se mai tradito così. Non soffrirò mai più per te. Non servi per me, non servi per me. E non ci penso alla vendetta, perché il coraggio non ce l'ho. Ma la ferita del mio cuore è grande per me. Andiamo avanti nella vita, un'altra donna mi amerà. Un'altra strada senza fiori, una illusione di più. Non soffrirò più per te, se mai tradito così. Non soffrirò mai più per te. Non servi per me, non servi per me. Datemi una donna con un'anima per me, non un'avventura, l'avventura non la voglio mai più. Io non la voglio mai più, io non la voglio mai più. Non soffrirò mai più per te. Non servi per me, non servi per me, non servi per me, non servi per me.